Letture di Radio 24. Il direttore di Amnesty International definisce Israele una feccia, scatenando una serie di polemiche, ma il suo non è un caso isolato all'interno dell'Associazione per i diritti umani. Uno Stato feccia. Così ha definito Israele il direttore di Amnesty International a Helsinki, Frank Johansson, scrivendo sul sito del tabloid Il Taleti. L'ammiraglia dell'umanitarismo globale, bibbia dei diritti umani e vincitrice di un premio Nobel per la pace, non ha intravisto nelle parole di Johansson una valida ragione per espellere uno dei suoi capi in Nord Europa. Amnesty ha così commentato: «Non pensiamo che questa affermazione metta in discussione l'integrità di Amnesty e il suo impegno per la promozione dei diritti umani. Niente inchiesta interna, dunque. Così, visto che nelle stanze della multinazionale dei diritti umani la frase di Johansson stava passando in cavalleria, ci ha pensato un gruppo di intellettuali a chiedere l'espulsione del capo di Amnesty. Hanno firmato l'appello il giurista di Harvard, Alan Dershowitz, la nota studiosa di cultura yiddish, Ruth Viss, il proprietario di New Republic, Marty Peretz, l'ex advisor della Casa Bianca, Elliot Abrams, e il padre di Daniel Pearl, Judea Pearl. L'affermazione di Johansson getta discredito su un'organizzazione già accusata da molti di bancarotta morale. La frase è di Salman Rushdie. La Finlandia non è un luogo qualunque per l'umanitarismo. Da sempre il paese è in prima linea nell'attività internazionale in difesa dei diritti umani. Il presidente Martti Ahtisaari ha anche vinto un Nobel. Il nome stesso della capitale, Helsinki, è associato nella mente di numerose persone allo spirito dei diritti umani. Johansson però non è un caso isolato. Amnesty è arrivata persino a chiedere all'amministrazione Obama di sospendere immediatamente gli aiuti militari a Israele, ma non ha trovato il tempo di chiedere, en passant, anche un embargo verso Hamas, rendendosi incapace di distinguere fra Israele e i suoi aggressori, fra una democrazia quantunque imperfetta e un movimento terrorista che inculca nei propri figli l'amore per la morte. Nel 2002, quando le forze di difesa israeliane, dopo 2 anni di attentati suicidi, andarono a stanare i terroristi dentro i territori palestinesi, l'accusa, poi rivelatasi completamente falsa, che avessero compiuto un massacro a Jenin, fu alimentata proprio da Amnesty, scatenando giornali e TV in tutto il mondo. In Inghilterra, l'ufficio di Amnesty ha sposato le tesi più estreme dell'antisionismo. Nata per difendere i prigionieri politici, l'organizzazione non ha mai richiesto la liberazione dei soldati israeliani rapiti da Hezbollah e Hamas. E mentre a Helsinki i nipotini delle benemerite lotte umanitarie erano intenti a definire spazzatura l'unico membro delle Nazioni Unite condannato a morte, Gilad Shalit languiva, da 4 anni, in un tugurio dei fondamentalisti islamici a Gaza, e i suoi sequestratori diffondevano video in cui giustiziano il giovane caporale ebreo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Giulio Meotti, Israele è una feccia, così parlano ad Amnesty, bibbia dei diritti umani, dal Foglio dell'1 ottobre. Letture di Radio 24. L'Associazione Casalinghi d'Italia conta 5.000 iscritti, che rappresentano una categoria i cui numeri sono irrilevanti se paragonati all'universo delle casalinghe, ma in continua crescita. E ora stanno per riunirsi nel loro primo congresso nazionale. 16 minuti, poco più di un quarto d'ora. Tanto, si fa per dire, è cresciuto in 14 anni l'impegno degli uomini italiani nelle faccende di casa. Adesso arriva a 2 ore al giorno, neanche poche, se non fosse che in quell'arco di tempo è compreso anche quello passato a giocare con i figli, PlayStation inclusa. La fotografia del maschio domestico è dell'Istat e rivela pure l'esistenza di uomini che mai hanno sfiorato una spugnetta per i piatti o caricato una lavatrice. Tanto da far pensare che quella media di 224 rivoluzionari secondi con cui lentamente si stanno ridisegnando gli equilibri donna-uomo siano tutti merito del lavoro a tempo pieno degli iscritti all'Associazione Italiana Uomini Casalinghi, che adesso il 9 e il 10 ottobre a Sanremo si riuniscono per il loro primo congresso nazionale. verranno accolti con un grembiule dell'associazione e con una serie di omaggi degli sponsor, marchi alimentari e di igiene per la casa che hanno fiutato il business, come la Scottex, che è anche partner delle lezioni di economia domestica che i maschi casalinghi terranno il 6 ottobre a Torino, il 25 a Milano e l'11 novembre a Bologna. Un congresso un po' tardivo, visto che l'associazione è stata fondata nel 2003 da Fiorenzo Bresciani, 58 anni, di Pietrasanta, Lucca. Allora erano appena in 3 pionieri, adesso sono 5.000, 250 dei quali esibiscono fieramente la scritta «Casalingo» sulla carta d'identità. Il primo è stato proprio Bresciani, quando decise di mollare la sua macelleria per mettersi a lavorare in casa mentre sua moglie si dedicava alla professione di medico. Dopo 2 anni, pretese l'ufficializzazione del suo status, provocando uno shock, racconta, all'impiegata dello sportello della sua Pietrasanta. «Mi disse che non era previsto». Chiesi di parlare con il direttore dell'ufficio comunale e alla fine lo convinsi. I casalinghi ufficiali sono un pugno di uomini se paragonati all'esercito di 5 milioni di casalinghe censite dall'Istat. Molto motivati però, perché mentre per le donne il lavoro in casa è sempre stato un obbligo, per noi è quasi sempre una scelta, chiarisce Bresciani, che in questi anni si è prodigato per diffondere il suo verbo. A colpi di corsi di stirologia, epistemologia del bucato e home fitness con i sacchi di patate appesi al bastone della scopa. Il punto di forza è però il sito uominicasalinghi.it, circa 16.000 visite al mese. Da consigli su come rimuovere il chewing gum dai vestiti e come scegliere il miglior forno a microonde. E visto che di maschi si tratta, è ricco anche di consigli sulla prevenzione dell'ipertrofia della prostata. Adesso tra i 5.000 iscritti ci sono un 30% di separati che, come il 5% di single, ha fatto di necessità virtù e un 65% di regolarmente accoppiati, sinceramente a loro agio, tra pentole e ferri da stiro. Tanti casalinghi per passione come Michele Polidori, 50 anni, un mago nel bucato. Leggo attentamente le etichette, controllo i colori e carico la lavatrice di notte per risparmiare. Talmente bravo da essere richiesto come colf in casa d'altri, perché faccio le pulizie come se fosse sempre Pasqua, sposto i mobili, alzo i tappeti, sono pignolo. Qualcuno invece è casalingo causa recessione, come 2 trentenni romani che preferiscono restare anonimi. Hanno perso il lavoro e adesso si dedicano a casa e bambini, mentre le mogli lavorano rispettivamente in un supermercato e in uno studio legale. Perché un congresso soltanto ora? Perché Bresciani ha letto gli ultimi dati INAIL che sulla base dell'1,1% di uomini che hanno sottoscritto una polizza contro gli infortuni domestici stimano i casalinghi sarebbero 22.600. Ha perciò deciso che è ora di stanarli. Neanche a farlo apposta, l'ufficializzazione del movimento coincide con la campagna di rinnovamento dell'uomo statunitense appena lanciata da Newsweek al grido «È tempo di ripensare la mascolinità». Con una copertina che, ragionando sull'impennata della leadership femminile e la relativa destabilizzazione del maschio, sostiene che per riposizionarsi gli uomini dovrebbero abbracciare lavori femminili e pannolini sporchi. Agli americani non mancano certo i manuali per orientarsi. Alla voce House Husband, casalingo, Amazon offre una 60ina di titoli, da The House Husband's Words a Man of the House. L'Italia è un po' più indietro, sia come leadership femminile, sia come produzione letteraria tematica, con i soli Se papà fa il casalingo, Franco Angeli, di Federico Nenzioni e Francesco Bacciglieri, e Casalingo e contento, Sperling e Kupfer, nel quale Fabrizio Dio L'Aiuti, 51 anni, sposato, poi single per 11 anni, fornisce pure i 10 comandamenti del maschio casalingo. Da ricordati di santificare le faccende a non pulire invano. A sentire il sociologo Domenico De Masi, la strada è però segnata anche da noi. Andremo verso una società androgina, dove i valori che appartenevano agli uomini si trasferiranno alle donne e viceversa, ritiene, convinto che gli uomini abbiano sbagliato finora a privilegiare la dimensione collettiva e la razionalità, lasciando la sfera emotiva alle donne. Una scissione patologica che li ha resi perdenti perché l'emotività è indispensabile per la carriera. Non a caso Bresciani a Sanremo raduna gli adepti spingendoli a trasformarsi in maschi capaci di dialogare con le donne in un'ottica di ascolto reciproco. Maschi talmente convinti da pretendere di essere identificati come casalinghi sui documenti. Polidori ha voluto aggiornare il suo lo scorso anno. Mi aspettavo resistenze burocratiche, invece nessuno ha battuto ciglio, erano pronti. Così è stato anche per Agostino Menchini, 70 anni. Ex marinaio in pensione, ha deciso di occuparsi della casa. Cucino, lavo i piatti, spolvero, mi occupo del nipotino. Nessun problema con la carta d'identità, neanche per lui. Semmai qualche battuta di troppo dagli ex colleghi marinai. «Ma sei passato all'altra sponda?» si stupivano, vedendolo disertare l'appuntamento al bar a favore del mercatino rionale. Pregiudizi duri a morire. È facile facile che un casalingo venga bollato come omosessuale, sottolinea Bresciani. Niente di più sbagliato. Il lavoro sporco lo fanno sicuramente gli iscritti all'associazione. Prendiamo la massacrante giornata tipo di Angelo Bresciani, 54 anni, guardia giurata in pensione e ora casalingo doc. Sveglia alle 6, preparazione della colazione per la moglie cuoca, passeggiata con il cane, pulizia di bagno, stanza da letto, salotto. Poi supermercato, preparazione del pranzo. Al pomeriggio stira, fa piccole riparazioni e quindi si dedica alla cena. Alle 21 sono spappolato. Faticavo meno da guardia giurata, scherza. Sua moglie è felice, così come quelle che in tanti spot TV rimirano i mariti impegnati con lavastoviglie e lavelli incrostati. Però, eccezion fatta per quelli dell'associazione Uomini Casalinghi, fuori dal piccolo schermo, l'anticalcare lo utilizzano soprattutto le donne. I marchi di prodotti per la casa scelgono spesso maschi testimonial, spiega Michele Mariani, direttore creativo dell'Armando Testa, perché alle donne davanti alla TV piace pensare a una società ideale dove l'uomo partecipi ai lavori di casa. Le gratifichiamo perché sono loro le responsabili degli acquisti. Appunto. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Antonella Piperno, Professione Casalinghi e Per nulla disperati, da Panorama del 7 ottobre.